fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Siamo pronti, buonasera di nuovo a tutti in questa domenica Happy Hour per i Ceni Italiana Convento di Ronato. Siamo nel nostro spazio radiofonico ovviamente, quindi Risto Radio, la web radio del nostro ristorante. Io sono naturalmente Master Nick, ma non sono solo, perché il leitmotiv della nostra radio è appunto per raccontarsi, per raccontare, uno spazio aperto e libero per far chiacchierare i nostri ospiti, che ormai ospiti non sono più perché sono diventati praticamente amici, parte della nostra grande famiglia Convento. E abbiamo qui tre giovanissime ragazze, bellissime ragazze. Trovate a voi un altro superlativo da affibbiarvi, io li ho finiti. Ciao ragazzi, siamo le ragazze del reggaeton noi. Quindi le reggaetonissime ragazze, perché esatto, così si definiscono. Allora vai, presentatevi, prendetevi le vostre colpe. Sono di Buvolone, di Verona, ho 23 anni. Grande entusiasmo la e Sara, amo il reggaeton. Convintissima, è il posto della sua vita. Poi... Buonasera a tutti, io sono Irene, vengo anche da Bobolone. Guarda caso. E adoro anche il reggaeton. Guarda caso, perfetto. E poi abbiamo... mamma mia, oh, questo che vuole usare i microfoni degli altri. Io sono Alessandra, ho 24 anni, vengo da Verona e ovviamente siamo le amiche del reggaeton. Mamma mia, le amiche del reggaeton. E come mi è nata questa passione? E intanto, cioè, allora, definiamo reggaeton, cioè cos'è che vi piace? Definite il reggaeton per chi non lo conosce. Irene, che sei esperta. Perché? Non lo so. E definite, io non so nulla di reggaeton. È musicale. Ok. Che, diciamo che si accompagna con un ballo molto sensuale. Molto sensuale, ok. Che ti piace molto. Ma per la sensualità o per il ballo? Tutte e due. Ah, tutte e due, tutte e due. Un artista reggaeton di riferimento? Ozuna. Chi? Ozuna. Ma non era una malattia? No. Ah, ok, no, perché me l'hanno sempre presentata come una malattia. Cioè l'Ozuna, si vede un po' che insomma non stai benissimo. E invece no, è un cantante, quindi un artista. Va bene, bene. Ozuna, di dov'è questo Ozuna? Deve essere colombiano. Colombiano? Spagnolo. No, guarda che noi siamo qui per imparare cose nuove. È importantissimo imparare cose nuove, ok? E da quanto vi siete innamorate del reggaeton? Un anno, un annetto. Ah, siete novelle, quindi. Ma andate a ballare, andate ai corsi o... Veniamo qua anche. Vi chiediamo il reggaeton. Vabbè, ma questo è un modo per, come dire, esprimere la vostra passione. Però andate anche a studiare o... No. Perché non è arrivato il reggaeton a Bovolone? Non l'hanno ancora inventato? Non l'hanno ancora inventato. Quindi parliamo, mandiamo un messaggio, insomma, interplanetario a Ozuna e chiediamo di portare il reggaeton a Bovolone, che non è ancora arrivato a Bovolone il reggaeton. Hanno scoperto Mina da 4-5 giorni a Bovolone, quindi insomma diciamo che sono più o meno 60-70 anni indietro rispetto al genere musicale che sta andando di moda oggi. Quindi chiediamo al nostro amico Ozuna di presentarsi a Bovolone con tutta la sua band e tutti i suoi strumenti e far conoscere il mondo del reggaeton a questi poveri come dire arretrati di Bovolone, che sono rimasti arretrati in senso temporale, non in senso... Esatto, no, arretrati temporalmente, perché sono ancora insomma indietro così, per dire, a Bovolone non sanno ancora che come dire la Germania, cioè Germania Est, sono ancora su Germania Est e Germania Ovest, ancora non sono arrivate che si è riunita la Germania in due, che dici? No, assolutamente no, non si dice quello, insomma c'è quella cosa del muro di Berlino che poi fuori onda spiegherò loro cosa significa, che non è un come dire una costruzione, cioè nel senso non è mio amico muratore che fa il muro di Berlino, no, è una cosa che è successa e che poi vi spiego. Allora, quindi andiamo? Agli amici? No, prima loro e poi porteranno il verbo a tutta la popolazione di Bovolone. E cosa fate nella vita al di là di ascoltare reggaeton? Io lavoro a Gardaland e studio. Bello, lavori a Gardaland? Studio economia. Sì, ma non mi interessa che studi economia, mi interessa che lavori a Gardaland. Cosa fai a Gardaland? A Gardaland faccio la cassiera. Ma stagionale o 12 mesi? Stagionale. Ah, stagionale. Come vanno le cose a Gardaland? Male. Puoi fare... Allora, adesso ti chiedo una cosa... Come male? C'è sempre il pienone. Ti chiedo una cosa personalissima. Puoi parlare col signor Gardaland, che penso, come si chiama, Luciano Gardaland? Sì, Luciano Gardaland. Bravo. Quindi parli col signor Luciano Gardaland e gli dici: caro Luciano, perché bisogna insomma, dare delle... e non aumentiamo più i prezzi, perché nel senso ogni anno anche un euro in più alla gente, soprattutto agli amici di Bovolone, non è che piacciamo, cioè nel senso non è che siamo tutti contenti di questo. Io, Luciano, allora i prezzi sono troppo alti. Ma non devi dirlo qui al microfono, devi dirlo a lui quando lo vedi. Quando lo vedi, no? Che andrete. Facciamo un appello. Giusto, allora vai, fai l'appello. Signor Luciano. Gardaland, perché sennò sembra anche Ligabue. Signor Luciano Gardaland, facciamo un appello che ecco, deve abbassare i prezzi. E alzare gli stipendi. Ma questi sono interessi suoi personali. E abbassare i prezzi, cioè mantenerli almeno standard, sono interessi di tutta la popolazione. Bello comunque Gardaland, ti piace? Sì. No. Vabbè, bene. Sì, no. Ha detto sì con la voce, ma ha detto sì con la voce, ma no con la testa, quindi no, c'era un po' di però dottor Jekyll e Mr. Hyde. Ascoltare signor Luciano. Ok, non ascoltare. Poi abbiamo una, cosa fai nella vita? La barista? Yes. Wow, in bar tuo o dipendente? No, dipendente. Ah, sei dipendente. In centro città a Bovolone. Ah, Verona, perché Bovolone non ha ancora un centro città, è solo periferia e strade sterrate, non hanno ancora inventato il cemento, arriverà brevissimo. E la barista, bene, e ma il barista tutto tondo, cioè nel senso anche caffè, eccetera, eccetera, proprio barman, bartender, scusi. Ok. Poco, cocktail pochi. Perché va il bianchino? Va forte il bianchino. Poi abbiamo la nostra superstar. E tu cosa fai? Io sono un'impiegata amministrativa. Oh, che noia, che vita noiosa. Una vita noiosissima. Dillo, così facciamo. Che è una nuova azienda, è un'azienda tedesca che c'è da poco tempo in Italia. Aldi, ok, e cosa fanno? Supermercato. È come il Lidl. Ah, ho capito. Sì, ne ho sentito parlare. Quindi hai una vita noiosa, perché questa è l'impiegata amministrativa, insomma, una vita, tra l'altro un'impiegata amministrativa che abita a Bovolone, quindi io insomma. Abito in Bovolone, io abito a Verona Centro. Ah, Verona Centro, perché giustamente, come dire, esatto, non, cioè, se sto anche a Bovolone, che è una vitaccia, quindi almeno vado a Verona Centro, così insomma faccio capire che ho una vita interessante, ma in realtà non è così. Perché se non la conosco, mi piacerebbe conoscerla meglio, ma non la conosco, ma immagino che la sua serata più entusiasmante sia divano, pantofole, Netflix. No, invece no. Esatto. Beh, quella è domenica. Domenica è come la dieta, no? È la giornata libera. E quindi una giornata libera si sfoga. Però il resto del tempo, che è la sua, il suo io vero è divano e pantofole. Invece no. Perché siccome sono single, allora esco fuori tutte le sere. Esci fuori tutte le sere così, dalla porta e poi rientri. Esatto, perché controlla. Lei la posta, perché praticamente la chiamano termometro, cioè lei va fuori, controlla le temperature e poi dice: si è abbassata un po' la temperatura. Poi va, cioè non lo dice a nessuno, però fa delle statistiche sue personali per vedere se il meteo e la temperatura si alza e si abbassa. È una bella vita, insomma, è interessante. Esatto, come Greta Thunberg. E giustamente sottolineavi il fatto di essere single. Io mi farei due domande proprio per questo motivo. Forse cambierei hobby. Felicemente o no? Sì, aggiungerei felicemente. Ah, felicemente single, quindi non sei alla ricerca. No. Non di un fidanzato. No, di un fidanzato. E cosa cerchi? Amici. Un cellulare, una ruota di scorta? Amici. Amici. Perché non è neanche amici. Sì, dai, ci sono. Ah, ci sono. Sì, ah, no, io voglio capire che tipologie di amici ci sono, perché è curioso. Gli amici con cui andare a ballare il reggaeton, per esempio. Ok. Esatto, gli amici con cui bere qualcosa. Gli amici con cui andare a mangiare qualcosa. Ok, perché giustamente con un amico con cui bevi non mangi. Cioè si beve e basta, non puoi mangiare, è proprio vietato dal regolamento. Se hai fame devi chiamare l'amico con cui mangi e però non bevi nulla. Cioè sei completamente... Esatto. No, beh, indipendentemente da alcol o non alcol, cioè se vai con l'amico del cibo o l'amico con cui mangiare, non puoi, cioè neanche il bicchierino d'acqua vuoi prendere, perché devi rimanere assolutamente disidratata. Perché se hai sete e vuoi bere, devi chiamare anche l'amico del bere, che se capisci che c'è un amico del mangiare, è finita. Perché dice: io volevo essere l'unico amico del bere tuo. No. Esatto, perché poi è un casino gestirli tutti, altro che avere, cioè meglio, più difficile avere 6 amanti che una vita come la sua. Adesso è tutto chiaro. Ragazze, volete dire qualcosa? Volete mandare un messaggio? Sì, non vedevo l'ora, guarda, non vedevo l'ora. Perché non posso staccare la spina a questa radio, se no la staccherei adesso. Comunque va bene, mandiamo il messaggio del reggaeton nel mondo. A Bovolone City. Siamo in diretta dal convento di Lonato. Mi raccomando, portiamo il reggaeton nella bassa veronese. Grande. Ozuna, no, chi è? Ozuna, scusa. Ozuna, fatti avanti. Fatti avanti. Vai, e... siamo. Esatto, e se sei anche single, la Ale è interessata. Quindi si sa mai, perché insomma, uno che fa anche reggaeton single per la Ale è. Attenzione, perché sei l'amico del mangiare e l'amico del bere, ricordiamo. Certo, cioè, ma quelli nel momento in cui trovi un amico che fa tutte le cose, niente, li licenzi e li mandi sotto un ponte. Esatto, esatto. No, beh, non cerchi più altri amici, perché c'è l'amico con cui bere, l'amico con cui mangiare, tutti in un'unica persona, e diventa cioè, un po' più interessante come vita, no? Va bene. Allora, grazie mille ragazze, vi mandiamo a ballare il reggaeton, che in questo momento sta imperversando in pista. Sentiamo? Sì, guarda. No, guarda, sto controllando la pista e c'è assolutamente una canzone del reggaeton che vi faccio sentire, eccola qua. Questo è un grande successo reggaeton. Conosco, è Ozuna, tra l'altro. È Ozuna, senti che roba. Senti come reggaeton. Sentilo. No, non si controllano più, stanno ballando tantissimo queste ragazze, perché appena hanno sentito partire il reggaeton gli è partita l'anca sbilenca e non riescono più a fermarsi. Quindi ho staccato la spina per ovvi motivi, così almeno si calmano e fanno abbassare le pulsazioni del loro cuore. Allora, grazie mille, vi aspettiamo presto, tornate a trovarci e vi faremo ascoltare tutti gli album reggaeton nati dal 2019 ad oggi, quindi negli ultimi 2 mesi. Grazie mille, è stato bello, a presto. Ciao!